miseria e cemento, mi accompagna fiero di quello che sono, fuori dalla fabbrica nel dopo lavoro. Splende poco il sole in quelle giornate, sotto di un padrone mille facce incazzate. Oltre la fatica, senza più dolore, segnerà la tregua dell'odiato sudore. Oh, fammi ancora bere al giorno che verrà. Oh, riempimi il bicchiere alla notte che scenderà. Dei lavoratori stanchi ed affamati, fuori dal cantiere, prima di mangiar. Guarda come bevono i granata dentro al bar. Guarda queste strade, dove siamo finiti. Madre a far bocchini, padre a travestiti. Scorre come il tempo della nostra vita. Gloria o morte, noi non la faremo mai finita. Oh, fammi ancora bere al giorno che verrà. Riempimi il bicchiere, alla notte mi scenderà. Oh, fammi ancora bere al giorno che verrà. Oh, riempimi il bicchiere, alla notte mi scenderà. Fammi ancora bere al giorno che verrà. Oh, riempimi il bicchiere, alla notte ti scenderà. Oh, fammi ancora bere al giorno che verrà. Oh, riempimi il bicchiere.